Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. minuti 30 secondi in questo esatto istante. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Benvenuti all'ultimo appuntamento con Nessun Luogo è Lontano. I saluti mi vengono anche da Mire Lucchetti, Nadia Zemmitti, che hanno scritto con me anche questa puntata, Roberto Scaltriti alla parte tecnica. Commenti, critiche, domande al 349-238-6666 oppure Twitter, cercatemi, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24. Infine la pagina Facebook del programma, ormai la conoscete, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Allora, quest'oggi dedicherò l'ultima parte della trasmissione nel rispondere a un po' di domande che si sono accumulate in questo mese di programmazione di Nessun Luogo è Lontano e rispetto alle quali non sono riuscito a rispondere puntata dopo puntata. Questa nell'ultima parte della trasmissione. Nella prima parte invece vi propongo un punto di vista un po' più laterale, un po' più inusitato sui conflitti. Chi ha seguito la puntata speciale di Ferragosto ricorderà che abbiamo analizzato come le crisi, i conflitti, le guerre abbiano un impatto devastante anche sul patrimonio archeologico, artistico e culturale dei luoghi in cui scoppiano quelle crisi. Un impatto che sul breve termine è meno facilmente misurabile, sul lungo termine la tesi che abbiamo presentato è che sostanzialmente va a distruggere l'identità di un popolo, va a distruggere i simboli, va a distruggere anche i luoghi dove si raccoglie la socialità di quel popolo. E abbiamo raccontato la crisi irachena da questo punto di vista, quella siriana. Quest'oggi vi propongo una riflessione analoga, ma se volete ancora un po' più laterale, ma non per questo meno importante, ed è come le guerre impattino sull'ambiente, sull'ecosistema, sulle acque, sull'aria, sul terreno stesso dove avvengono i conflitti. E mi soccorrerà in questa analisi Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico del WWF. Dottor Bologna, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi tutti. Allora, dottor Bologna, noi ci occuperemo di due casi di scuola, diciamo, gli ascoltatori perdoneranno il linguaggio un po' asettico, però dare esempi specifici è sicuramente il miglior modo per costruire un paradigma che poi vale in generale. Da un lato parleremo della crisi irachena e poi parleremo della lunga guerra che ha afflitto il Congo e che la Repubblica Democratica del Congo per il momento pare sopita. La recente guerra in Iraq ha impattato sicuramente non solo sui reperti archeologici, l'abbiamo ben raccontato, ma anche appunto sull'ecosistema. Dottor Bologna, facciamo così, ascoltiamo la fotografia che abbiamo tratteggiato di forse una delle più grandi ricchezze di quell'area, che sono i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e poi con lei iniziamo a parlare dell'impatto della guerra su questo ecosistema. Il Tigri e l'Eufrate, la coppia di fiumi più famosa del mondo, hanno avuto un'importanza storica enorme, legata alle civiltà antiche e ai primi grandi insediamenti che hanno abitato la Mesopotamia, letteralmente regione tra i fiumi. Ma allora come oggi, sono soprattutto fiumi che portano enormi quantità d'acqua in regioni molto aride e popolose. Con 2760 km di corso e una portata media di 818 metri cubi d'acqua al secondo, l'Eufrate è il fiume più lungo dell'Asia occidentale e culla di alcune delle più antiche civiltà quali i Babilonesi, gli Assiri e i Sumeri. La sua sorgente si trova in Turchia, attraversa poi la Siria a sud-est, per raggiungere infine l'Iraq, dove si estende la maggior parte del suo bacino idrico. In Iraq, l'Eufrate si unisce per un ultimo tratto con il Tigri, per poi sfociare nel Golfo Persico. Il bacino dell'Eufrate è sfruttato per la sua grande portata, principalmente in Turchia e in Siria. Lungo il suo corso sorgono diverse dighe, laghi artificiali e canali di irrigazione che ne hanno nel tempo modificato il corso, impattando notevolmente sull'ambiente e sulla società di ciascuno dei tre paesi lungo i quali scorre. In particolare, a partire dagli anni 70 con l'implementazione del Southeastern Anatolia Project, è man mano aumentata la percentuale annua di evaporazione e decine di villaggi sono stati costretti a spostarsi per far deviare il corso del fiume. Il Tigri è lungo 1900 km e ha una portata media di 1500 metri cubi d'acqua al secondo. Nasce in Turchia, nella catena montuosa del Tauro Armeno. Per 44 km del suo corso, il Tigri costituisce il confine tra Siria e Turchia, per poi snodarsi interamente sul territorio iracheno, dove raggiunge la grande pianura alluvionale della Mesopotamia meridionale e bagna importanti città come Mosul e la capitale, Baghdad. La costruzione di dighe in Turchia e Iraq è diventata motivo di controversia fra i due stati, con il rischio di riduzione del corso d'acqua e di inaridimento di intere aree lungo le sue rive. L'acqua del Tigri è da tempo utilizzata come mezzo di pressione politica durante i conflitti armati. E da questa prima fotografia già si inizia a capire bene l'importanza di questi due corsi d'acqua. Oggi in Nessun Luogo Lontano non parleremo della guerra, la cosiddetta guerra dell'acqua, perché è un tema che abbiamo affrontato nelle scorse edizioni, nei scorsi cicli di questo programma, ma sicuramente è un tema che, come dire, è lì dietro l'angolo e accarezzeremo anche con Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico di WWF e a cui girerei la prima ovvia domanda: come la recente guerra in Iraq, quella che è tuttora in corso, sta impattando sull'ecosistema iracheno? Ma innanzitutto va ricordato che l'Iraq purtroppo è sottoposto a situazioni di guerra da diversi anni e l'insieme degli impatti che ci sono stati su tutte queste guerre hanno a che fare purtroppo con tutti gli ambienti naturali e tutti i grandi comparti ambientali del paese. Quindi abbiamo a che fare con un inquinamento di acqua e di suolo. Pensate semplicemente a che cosa significa quello che è stato anche l'uso che è stato fatto dagli americani durante la campagna del 1991 per quanto riguardava tonnellate e tonnellate di missili che contenevano uranio esausto, per non parlare poi di tutte le sostanze che sono legate all'inquinamento utilizzato dagli stessi aerei, quindi penso che si possa dire al benzene, al tricloroetilene e a tante altre sostanze. Pensiamo alle altre sostanze tossiche che sono legate alle iniziative militari, quindi sia dagli stessi veicoli militari che soprattutto in zone abbastanza desertiche non fanno che incrementare il movimento della polvere di queste zone e quindi anche come queste particelle molto piccole che sono anche legate a quelle che sono le particelle naturali del deserto si contaminino con tutti i metalli pesanti. I survey che sono stati fatti a livello microbiologico dal Geological Survey statunitense hanno trovato arsenico, cobalto, bario, alluminio e quindi tantissimi altri componenti. Poi inutile che vi dica che abbiamo un inquinamento dovuto all'emissione di gas serra che sono molto pesanti, molto significative, perché ovviamente tutti gli strumenti militari consumano combustibili fossili e per esempio semplicemente nella guerra, in un mese soltanto, nella guerra del 2008, i militari statunitensi hanno usato oltre in Iraq di petrolio oltre un miliardo e 200 milioni di barili di petrolio, quindi stiamo parlando di cifre, un milione e 200 mila barili di petrolio. Per non parlare poi degli ambienti naturali, gli ambienti naturali sono molto delicati, sono ecosistemi sempre complessi, soprattutto in ambienti complessi come quelli desertici o ambienti come quelli che l'Iraq ha, di zone umide che si trovano, voi avete giustamente ricordato che una delle zone più importanti è proprio quelle delle paludi mesopotamiche tra il Tigri e l'Eufrate, che sono un IBA, come viene chiamato a livello internazionale, un Important Bird Areas, quindi un'area di grandissimo valore per quanto riguarda le migrazioni tra Africa e Medio Oriente e in genere l'area asiatica. E qui abbiamo avuto perdite importanti di questi ambienti naturali, e ricordo che addirittura tutto quello che c'è stato attraverso le prime guerre del Golfo, il ruolo che Saddam Hussein ha avuto contro una delle popolazioni che vive, anzi la popolazione che vive in queste zone, che sono i Maadan, di cui forse in qualche occasione voi avete parlato, e a cui, contro i quali si è accanito in maniera particolarmente significativa ed evidente, distruggendogli anche l'ambiente naturale. Oggi noi, dai dati satellitari che abbiamo attraverso il fatto che per fortuna ormai il nostro pianeta ovviamente il re è nudo, non abbiamo più bisogno di dati che provengono direttamente dai governi, i dati sono direttamente visibili attraverso questa massa oramai di satelliti da telerilevamento che a partire dal 1972, quando la NASA lanciò il primo Landsat 1, abbiamo, e ci danno un quadro di questa situazione. Il dramma di questa situazione delle zone umide tra Tigre e Eufrate è veramente notevolissimo, tanto che abbiamo avuto una riduzione della superficie di queste aree veramente spaventosa. E la cosa però anche interessante che mi piacerebbe segnalare è che ci sta anche una grossa reazione, una grande attività positiva per ricreare quello che era chiamato il giardino dell'Eden. C'è un grande programma internazionale voluto da alcuni iracheni, tra cui c'è un personaggio straordinario che proprio lo scorso anno ha vinto il Goldman Environmental Prize, che è una sorta di premio Nobel ambientalista che viene dato negli Stati Uniti, e questo personaggio, che è un ingegnere civile che è tornato in Iraq a combattere a favore della natura e a favore della zona proprio del Tigre e dell'Eufrate, ha consentito di rilanciare questo grande programma che si chiama Eden Again, quindi di nuovo bisogna far tornare l'Eden in quelle zone, e tanto che già l'anno scorso lo stesso governo iracheno ha deciso di creare il primo parco nazionale proprio in quello che è le aree rimanenti di questo straordinario ambiente di zone umide che ci sono in Iraq tra Tigre e Eufrate. Come un conflitto impatta sull'ecosistema, impatta sulla terra, sul terreno, sull'aria, sull'acqua? Questo è il primo tema che vi propongo in quest'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano, e vi segnalo anche un sito molto interessante, si chiama costofwar.org. Se leggete in inglese è molto molto interessante, è un sito che raccoglie un sacco di informazioni redatte da professori, antropologi, scienziati, biologi eccetera, e dà un'idea dei costi, dell'impatto sull'ambiente di tre grossi conflitti, Iraq, Afghanistan e Pakistan, visti non solo dal punto di vista appunto sociale, economico, politico, ma anche appunto dal punto di vista dell'impatto ambientale. E questo studio rivela anche, come dire, delle situazioni che non sono immediatamente immaginabili, ad esempio quanto la guerra acceleri la distruzione della vita delle specie selvagge. Ad esempio questo sito rivela che gli uccelli migratori sono stati praticamente distrutti dell'85% nella zona dell'Afghanistan proprio per i continui bombardamenti. Rivela come la specie è molto rara, il leopardo delle nevi, a un certo punto che era messa in serio pericolo, e c'era un embargo, non era possibile cacciarlo, e l'impoverimento della popolazione locale a causa della guerra ha costretto gli stessi locali a andare a caccia di questa specie protetta per poi rivenderla anche, pensate, agli occidentali che lì lavoravano. Sono conseguenze anche inaspettate che i conflitti portano, dirette o non dirette, sull'ambiente, che è un po' il cuore di questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano. E siamo con Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico del WWF. Questa è un po', diciamo, la prima pagina legata al conflitto, lungo conflitto iracheno, se consideriamo i decenni di guerra a cui è stata sottoposta il paese medio orientale. Prima però di parlare di un altro caso, che è quello del Virunga nella Repubblica Democratica del Congo, di cui ho fatto cenno ogni tanto in queste puntate di Nessun Luogo Lontano, c'è, come dire, una, diciamo così, notazioni, istruzioni per l'uso. Quando ovviamente scoppia un conflitto, il primo pensiero va alle vittime civili, va ai profughi, agli sfollati interni, eccetera. E quindi come dire, c'è sempre una forma di imbarazzo nel iniziare campagne per la salvaguardia, esempio, dei beni archeologici o la salvaguardia addirittura dell'ambiente, perché il primo pensiero potrebbe essere: beh, insomma, intanto pensiamo alle vite umane, poi ci occuperemo dei monumenti e poi eventualmente dell'acqua, l'aria, la terra e le specie protette. Gianfranco Bologna, lei sente questa obiezione, la sente sua, e come risponde nel caso? Voi di WWF, che siete impegnati in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente anche in quelle occasioni di conflitto. Ma guardi, qui è proprio un problema di fondo che c'è dietro il tema che lei solleva. È chiaro che esistono sempre priorità, scale di priorità, e queste scale di priorità dipendono ovviamente sacrosantamente dalle situazioni che immediatamente hanno a che fare con le vite umane, no? Questo credo che sia evidente. Quello che vorrei sottolineare è che le vite umane riescono a vivere e sopravvivere grazie a un ambiente sano. Oramai la documentazione scientifica ingente che abbiamo sul valore del capitale naturale, quindi su quanto quelli che dovrebbero essere i nuovi sistemi economici dovrebbero tenere in conto il capitale naturale, senza il quale non abbiamo neanche la possibilità di vivere, di sopravvivere, ma neanche di avere benessere e sviluppo. Faccio degli esempi concreti. Lei citava prima il Virunga. Noi abbiamo prodotto un rapporto ad hoc sul valore economico del Parco Nazionale di Virunga, che sta nella Repubblica Democratica del Congo, di cui parleremo dopo. Ebbene, la stima che viene fatta di quelli che sono chiamati i cosiddetti servizi che gli ecosistemi offrono quotidianamente, gratuitamente, al benessere umano, e in particolare ovviamente in questo caso non solo delle popolazioni locali, ma anche per il grande valore che questo parco ha, che ha, diciamo, come ricaduta di carattere internazionale, è superiore a $1 miliardi l'anno. E noi abbiamo una situazione in cui purtroppo, faccio degli esempi concreti, la rigenerazione del suolo, la purificazione dell'aria, la stessa capacità di mantenere stabili la composizione chimica dell'atmosfera, l'uso della biodiversità che viene preso dalle varie popolazioni locali, e non solo, ma che è la base anche di quelli che sono i commerci internazionali, sono tutti servizi che gli ecosistemi offrono e che non sono minimamente quantificati in nessuna contabilità nazionale. Quindi il danno che le guerre producono nei confronti dell'ambiente, che producono nei confronti dell'aria sana, dell'acqua sana, del suolo sano, perché non scordiamoci che c'è un inquinamento del suolo molto significativo e profondo durante le guerre, e quindi anche della distruzione degli ecosistemi, è ingentissimo. Quindi io credo che preoccuparsi della dimensione ambientale, mi permetto di dire, è quasi equivalente a preoccuparsi della situazione umana. Non c'è possibilità per nessun profugo, non c'è possibilità per nessuna comunità, anche tribale, che vive in qualsiasi posto del mondo, di vivere senza l'uso di risorse naturali. Ove le risorse naturali stanno male, sono in situazioni di deperimento, di devastazione, di deterioramento, non c'è benessere umano. Professor Bologna, lei ha sottolineato, credo, anche uno degli aspetti forse fondamentali delle ricerche e delle campagne che voi conducete. Vi sono situazioni in cui c'è un legame diretto fra la natura e le popolazioni locali che vi vivono, e il caso ad esempio del lago Edward ne è un esempio evidente, perché la popolazione pesca lì, mangia lì quel pesce. Quindi in alcune situazioni la salvaguardia dell'ambiente significa necessariamente la salvaguardia delle risorse prime, primarie, alle quali è legata la vita delle popolazioni. Allora, abbiamo citato il Virunga, analizziamo questo caso. Il Parco Nazionale di Virunga si trova nella Repubblica Democratica del Congo. Fondato nel 1925 da Re Alberto I del Belgio con lo scopo di proteggere i gorilla di montagna, è stato il primo parco nazionale africano. Nel 1979 è stato inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità e da allora riceve una media di 6.500 turisti ogni anno. Copre un'area di 7.800 km quadrati sui Monti Virunga, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Confina con il Parco Nazionale dei Vulcani del Ruanda, con il Parco Nazionale dei Monti Ruenzori in Uganda e raggiunge le coste occidentali del Lago Eduardo. La vegetazione varia secondo la zona. A est le colline sono coperte di pascoli di terra vulcanica, mentre a nord-est si estende una foresta equatoriale densa con grotte e cascate, uno degli ultimi habitat dei pigmei. La foresta è ricca di legni preziosi e di legni da lavorazione. Il parco Virunga è famoso per la sua eccezionale biodiversità, In esso si trovano molte più specie di uccelli, mammiferi e rettili di qualsiasi altra zona d'Africa. Nonostante i gorilla di montagna siano ormai estremamente rari, le misure di conservazione hanno permesso la messa in sicurezza degli esemplari rimasti. Il loro numero è aumentato durante gli anni della crisi di governo, dal 1994 al 2004, e la loro popolazione continua a crescere, nonostante le difficoltà. Si suppone che nel parco si trovino tuttora elefanti della foresta e della savana, oltre a scimpanzé, okapi, giraffe, bufali africani e numerose specie endemiche di uccelli. Il lago Eduardo è inoltre noto per la presenza degli ippopotami, che è diminuita di oltre il 95% dal 2006. Negli ultimi 30 anni il parco ha sofferto le devastazioni e le perdite dovute al bracconaggio, alla guerra civile in Nord Kivu, all'arrivo in massa di profughi ruandesi, alle incursioni di gruppi di ribelli armati congolesi, diventando terreno di conflitti a fuoco. 120 ranger hanno perso la vita dal 94 ad oggi, mentre tentavano di difendere il parco da questi atti illegali. Le parchi nazionali di Virunga contribuiscono al sviluppo del nostro paese. Una regione famosa per i suoi endangered mountain gorillas. C'è una vita, un solo amore. La nostra vita dipende molto. Sadness is that, you know, there's been war for 20 years. When there's war on this scale, everything suffers. They make a target now. The rebels are just behind here. They are just shooting in the gorilla sector. It's very, very, very, very bad. E questa invece è la situazione del Virunga Park, un parco ricchissimo, un patrimonio gigantesco, e le voci che avete sentito invece sono quelle di un film che vi ho già citato in un'altra puntata in Nessun Luogo Lontano. Si chiama Virunga, un film diretto da Orlando von Einsiedel, che racconta la quotidiana lotta dei ranger. E fra l'altro il regista von Einsiedel era lì proprio durante la ribellione M23, quindi in una fase di guerra conclamata, perché lì il Virunga, come dire, era sottoposto a due attacchi: da una parte i bracconieri che da decenni cercano di sottrarre le risorse, dall'altra vi era proprio una ribellione. Il quartier generale di questo gruppo ribelle era proprio lì a fianco al quartier generale del direttore del parco, Emmanuel de Merode. Fra l'altro la cronaca ci consegna il ferimento proprio ieri di un altro dei ranger. È in realtà un fatto che avviene quasi quotidianamente. Nessun luogo è lontano. Gli effetti benefici della guerra si dispiegano in vari modi. Ci sono innanzitutto le vittime civili, poi ci sono problemi economici, ovviamente, perché le economie e i paesi vengono azzoppati. C'è il patrimonio culturale e artistico che viene reso claudicante, addirittura a volte completamente annichilito, andando a cancellare l'identità delle popolazioni. È stato al cuore di una scorsa puntata di Nessun Luogo Lontano. E poi, forse ci si pensa poco, ma c'è anche il patrimonio ambientale, il sistema naturale, l'ecosistema. E nel caso del Virunga Park, del parco nell'est della Repubblica Democratica del Congo, c'è un legame diretto tra l'ecosistema e la vita delle popolazioni locali. Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF, è con noi proprio per analizzare l'importanza dell'ecosistema, soprattutto quando è messo a rischio dai conflitti. Dottor Bologna, il Virunga Park ha innanzitutto un'importanza perché è forse il parco con la più alta biodiversità in tutto il mondo, no? Diciamo, questo è molto difficile dirlo. Ci sono dei parchi Onia che hanno una ricchezza di biodiversità molto significativa e importante, e quindi diciamo il mondo per fortuna è ancora con alcune presenze significative di luoghi dove c'è ricchezza di vita. E credo che la cosa più importante, come ci dicevamo prima, è che questa ricchezza di vita è la base anche per la nostra esistenza, per la nostra vita. E non possiamo pensare che il sistema economico umano sia l'ecosistema globale contiene l'economia, e quindi l'economia dipende dalla natura, perché se non c'è una natura sana non riusciamo ad avere neanche una capacità di vivere in maniera sana. E questo credo che oramai è dimostrato in tutto il mondo. Il Virunga è un esempio molto concreto, perché purtroppo è stato sottoposto a tanti effetti nefasti, e lei giustamente prima ricordava, o forse il servizio che avevate mandato in onda ricordava le specie che ci sono e il valore che queste specie hanno anche per la popolazione locale. Pensate che gli stessi ippopotami, che sono importanti, c'è una grande popolazione in quell'area, soprattutto nel lago Eduardo, e oggi sono rimasti una 20.000 esemplari di ippopotami. Abbiamo ancora 200-220 esemplari di gorilla di montagna, che fortunatamente a livello globale si mantengono con una popolazione che sta in crescita grazie agli sforzi giganteschi che stiamo facendo da molti anni. Sì. Siamo intorno agli 880 esemplari, e in tutta l'area in cui è diffuso, che poi fondamentalmente il gorilla di montagna si trova in quegli ambiti, quindi non solo nella Repubblica Democratica del Congo, ma nelle zone dei paesi vicini dove ricadono le altre aree protette nazionali, che mi pare siano state citate anche prima. Sì. Quindi, come dicevo prima, noi abbiamo fatto anche questo lavoro sull'economia, il valore economico di questo parco. Le parlavo appunto del valore che viene stimato intorno al miliardo di dollari l'anno, e anche la possibilità di occupazione, perché almeno 45.000 persone possono avere lavoro, e quindi c'è una possibilità di futuro. Certo. Per tutti questi giovani, che sono tantissimi, che hanno invece, che vivono in un paese che è molto molto povero. Fra l'altro, direttore, io la interrompo per aggiungere una cosa, che è il contraltare dal punto di vista economico il disboscamento illegale. I bracconieri creano un'economia parallela, benefica, con la quale si alimentano i gruppi armati, e questo ci dà anche la dimensione di quanto il valore economico possa poi andare a rialimentare il conflitto, perché i gruppi armati in quella zona sono tantissimi, e quindi fra le accuse mosse ad alcuni di questi gruppi c'era proprio il fatto che una delle fonti di finanziamento fosse il bracconaggio e le grosse risorse naturali che nel Virunga ci sono. Grazie mille a Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF, che ricordo, fra l'altro, WWF è stato tra i promotori di una campagna per far smettere la SOCO, le sue esplorazioni petrolifere proprio nel Virunga, ed è stata una vittoria dell'ecologia e non solo. Grazie Bologna, buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Allora, proseguiamo nell'analizzare quelli che sono gli impatti dei conflitti sull'ecosistema, sul terreno. Ci soccorre in questo proseguo di analisi Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Gianandrea, ben ritrovata a Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora Gianandrea, noi inizio trasmissione abbiamo citato un po' di dati che fotografavano il peso, l'impatto fisico della guerra: proiettili, bossoli, il piombo, le tonnellate di bombe scaricate, eccetera eccetera. Secondo te quanto è realmente un impatto, un problema serio nel momento in cui si muove un esercito, si muove la fanteria, decolla un aereo e va appunto a depositare piombo, è il caso di dirlo, su un territorio? Beh, è un problema serio, lo dimostra anche senza guerre la polemica in corso in quattro anni, ormai anche in Italia, su questi materiali tossici, inquinanti, che sono depositati nei nostri poligoni militari, in particolare in quelli sardi, che sono stati utilizzati più massicciamente. E certo, questo, quando c'è un conflitto, questo assume proporzioni anche maggiori, anche se non è sempre percepito nella sua dimensione, perché un conflitto determina tantissimi altri problemi che solitamente hanno la priorità e che riguardano appunto l'assistenza alle persone colpite, ai profughi, ai feriti, alle vittime. Noi abbiamo molti casi dove la questione ambientale è emersa nel post-conflitto. In genere queste valutazioni emergono dopo. Pensiamo ai Balcani, dove si è fatto molta polemica sulla presenza di metalli pesanti, addirittura di uranio impoverito, dopo i raid della NATO in Kosovo e prima ancora in Bosnia. Poi ci sono guerre in cui l'utilizzo delle risorse del terreno, anche a fini inquinanti, anche a fini deleteri per l'ambiente, costituiscono un'arma militare. Pensiamo alla guerra del Golfo del 91, Saddam Hussein che rovesciò centinaia di migliaia di barili di petrolio dentro le acque del Golfo, o incendiò più di 600 pozzi petroliferi per fermare o comunque per creare un danno ambientale, lasciare un segno, anche se nella sua sconfitta militare, ma anche nei giorni scorsi le avanguardie dello Stato Islamico avevano occupato alcuni pozzi petroliferi nel nord dell'Iraq, i curdi li hanno riconquistati alcuni, prima di ritirarsi i miliziani jihadisti li hanno incendiati, provocando ovviamente un danno sia ambientale inquinamento dell'aria, ma anche del terreno. Quindi insomma, le guerre oggi, come sempre, poi sono globali, ogni arma è lecita e anche quella del danno ambientale diventa un'arma importante, anche se appunto le sue ripercussioni, anche la sua importanza a volte anche mediatica, emerge soprattutto nella fase post-conflitto, quando si parla di ricostruzione e di rendere di nuovo abitabili zone devastate dalla guerra. Gianandrea Gaiani dirige la rivista Analisi Difesa, scrive fra gli altri anche sul Sole 24 Ore ed è esperto di cose militari. Allora Gianandrea, l'ultima puntata, è arrivato un SMS adesso, io te lo giro così a freddo, un'ascoltatrice, sì. Non è proprio in tema, però insomma, l'Ucraina sai che campeggia in prima pagina, e provocatoriamente dice: perché non si dice che la NATO vuole piazzare in Ucraina i missili per poter comandare in casa altrui? La guerra preventiva, si chiede l'ascoltatrice, è un brevetto Stati Uniti-NATO? No, è un brevetto di chi ha la tecnologia per poter utilizzare armi che anche senza il loro impiego hanno un valore strategico. E la polemica fra Russia e NATO prima della crisi ucraina sullo scudo antimissile che gli americani volevano, intendono posizionare in Europa, visto presentato come minaccia, come difesa contro minacce eventuali dall'Iran o da altri stati canaglia, per i russi è stato percepito come una minaccia diretta al loro territorio, perché è in grado di esplorare il loro spazio aereo e anche di intervenire militarmente. La crisi ucraina si inserisce in questo contesto, anche se nelle ultime ore la penetrazione di truppe russe, più o meno riconosciuta, dentro l'est della parte orientale dell'Ucraina, ci dà anche la misura di come gli scenari internazionali siano interconnessi. Guarda caso, la Russia interviene con sue truppe in Ucraina orientale nel momento in cui la Russia diventa importantissima e necessaria agli Stati Uniti per avere il supporto militare nella guerra contro lo Stato Islamico da quella Siria, da quel regime di Bashar Assad che solo Mosca ha sostenuto e che l'America fino all'anno scorso voleva bombardare, ma che oggi costituisce l'unica risorsa militare effettiva, seria, presente in quella regione per combattere i jihadisti. E allora insomma anche la crisi ucraina e la parziale in questo momento sembra vittoria della Russia si inserisce in un contesto di guerre, oggi ce ne sono tante, in tanti scenari, in tanti teatri molto vicino a noi e che sono sempre più interconnesse. Sì. Grazie Gianandrea Gaiani, come sempre illuminante nelle sue analisi. Gianandrea, buona giornata, buon lavoro. A voi, grazie. E così abbiamo soddisfatto la curiosità di un'ascoltatrice al 349-238-6666, dove arrivano altri messaggi sul tema invece quello di prima, quello ambientale. C'è chi dice: noi abbiamo cementificato le nostre regioni, le nostre città, l'intera Europa è un susseguirsi di case per il nostro progresso, ora però vogliamo mantenere i paesi sottosviluppati allo stato brado perché ci piacciono le loro foreste. Un po' ipocrita, segnala questo ascoltatore. Diamo l'esempio: parchi e alberi in un appartamento alveari per arricchire 4 imprenditori. Allora, questa era la lunga pagina dedicata all'approfondimento degli impatti dei conflitti sui territori dove esplodono, impatti che si vedranno sul lungo termine. Abbiamo presentato 2-3 casi per dare un'idea di questo paradigma. Se volete un punto di vista un po' laterale, ma ci tenevo a consegnarlo. In quest'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo è lontano. L'idea di questo programma è raccontare storie anche apparentemente lontane, ma che poi hanno un impatto anche sulla nostra vita quotidiana, e riaccendere i riflettori su luoghi apparentemente lontani, ma che poi, lo avete capito se mi avete seguito, non lo sono affatto lontani. Ma l'idea di questo programma era anche creare un luogo di discussione dove si affrontano temi che troppo spesso sono spariti dai nostri media per miopia e perché ci guardiamo un po' troppo l'ombelico. E siccome lo spazio di discussione prevede un sacco di domande, ne ho ricevute tante, ne ho scelte alcune delle ultime settimane per dare una risposta. Matteo da Biella mi scriveva, segue il programma da tempo, eccetera eccetera, non mi è chiaro, dice, l'origine e la natura della contrapposizione che si è creata tra Arabia Saudita e Qatar, su cosa si fonda e dove nasce, mentre, scriveva Matteo da Biella, sono un po' più chiare le conseguenze. E allora mi soccorre in questa risposta Andrea Plebani, che è ricercatore per l'area Medio Oriente e Mediterraneo dell'ISPI. Plebani, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno. Allora, noi Andrea Plebani abbiamo tratteggiato molto brevemente nelle scorse puntate questo braccio di ferro, no? Tra Arabia Saudita e Qatar. Ce la fai in 2 minuti a, come dire, ritirare le fila? Ci proveremo. Sicuramente le origini di questa rivalità affondano tendenzialmente nelle dinamiche geopolitiche del Golfo Persico, con il Qatar che è un paese che tenta di sfuggire allo scomodo abbraccio dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita che è un paese con un peso specifico ben maggiore rispetto al piccolo emirato qatarino. Dobbiamo solamente fare un paragone tra i pesi specifici dei paesi dal punto di vista demografico. Il Qatar dispone o ospita sostanzialmente poco più di 280.000 cittadini contro gli oltre 16 milioni sauditi. Il Qatar ha quindi avviato una politica volta a differenziare anche la sua politica estera, presentandosi come un paese moderno in una delle aree forse più tradizionaliste e più reazionarie a livello globale. Un paese moderno lo vediamo anche attraverso il sostegno all'emittente televisiva Al Jazeera, e un paese con delle specificità anche in ambito religioso, da qui il sostegno ai fratelli musulmani. E ha sostanziato questa direttrice di politica estera grazie a delle significative risorse idrocarburi, soprattutto per quanto riguarda il gas. Il Qatar è il terzo paese con le maggiori risorse di gas al mondo. E questo, abbiamo visto questa contrapposizione tra Qatar e Arabia Saudita, si è palesata in molteplici teatri, sia delle relazioni con l'Iran nel contesto siriano, all'interno dell'Egitto e in particolare per quanto riguarda le relazioni con i fratelli musulmani, e addirittura nella stessa Libia. È quindi una contrapposizione tutta interna al mondo arabo-sunnita, ma con delle conseguenze che superano di gran lunga quelle che sono le dimensioni del piccolo emirato qatarino, che però ha un peso specifico sempre maggiore sullo scenario internazionale. Chiarissimo, chiarissimo. Andrea Pebani, spero che anche l'ascoltatore sia, come dire, soddisfatto di questo, chiamiamolo, braccio di ferro all'interno della penisola araba, che insomma che ha ripercussioni notevoli. E poi Pebani, lei faceva bene a sottolineare come è vero che il Qatar c'ha, come dire, demograficamente non ha peso, ma c'ha un peso economico e ha l'incredibile peso mediatico dettato dal network che insomma, che non dico che detta legge, però incide sicuramente su tante popolazioni. Grazie mille Andrea Plebani dell'ISPI, esperto di Medio Oriente e Mediterraneo. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. E poi mi è arrivata una lettera scritta a brevi mano, e non mi accadeva da, lo confesso, da anni, perché insomma di solito Twitter, le mail, gli sms, invece mi è arrivata una lettera proprio ieri, fra l'altro, che è andata a sovrapporsi a un'altra domanda che mi era stata rivolta, se non ricordo se su Twitter o via mail, da parte di un altro ascoltatore. In buona sostanza si diceva: ma come ha fatto la Spagna a risolvere, tra virgolette, il problema dell'immigrazione irregolare? Ebbene, rispondo molto sinteticamente e spero di essere esauriente. La Spagna ha fatto una serie di accordi bilaterali con i paesi di origine, ha fatto un rafforzamento delle frontiere con telecamere, ha raddoppiato l'altezza dei muri di Ceuta e Melilla, che sono le due enclave, la città autonoma spagnola in territorio marocchino. La stessa polizia marocchina è molto più ferma nel gestire le potenziali partenze, e all'epoca dei grandi sbarchi, quando si partiva dal Senegal e dalla Mauritania con le piroghe, vi sto parlando del 2006 addirittura, e si arrivava a Tenerife, quindi Isole Canarie, in territorio spagnolo, da lì iniziarono grandi pattugliamenti anche aerei per prevenire tutti questi sbarchi. Così hanno fatto in Spagna. Poi vi furono accesissime polemiche, perché nel 2005, mi sembra fosse quello l'anno del grande assalto a Ceuta e Melilla, la Guardia Civile e la Polizia Marocchina spararono, vi furono morti, e per cui sicuramente quella chiusura destò anche una serie di critiche notevoli. Abbiamo ancora qualche minuto e ci sono altre domande alle quali appunto volevo rispondere. Una molto interessante l'ha rivolta un altro ascoltatore sulla pagina Facebook del programma Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Abbiamo spesso parlato di Gaza, del conflitto Hamas-Israele, e un ascoltatore scriveva: non aveva capito sui terreni occupati. Diceva: Israele occupa i terreni con la forza, oppure cittadini israeliani acquistano i terreni e, passato un certo numero di anni e in seguito agli investimenti effettuati, lo Stato di Israele rivendica quei terreni? Domanda molto precisa, molto tecnica, e mi soccorre Ugo Tramballi, Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Beh, intanto sono territori e non terreni, perché un terreno magari è qualche ettaro, con cui parliamo invece di... Comunque, in ogni caso, no, se si tratta, ci sono due differenziazioni. Fino al 1967, nel corso del XIX e XX secolo, gli immigrati ebrei che fuggivano dall'Europa o che per motivi ideologici, idealistici, si trasferivano in Terra Santa, anche la loro Terra Santa degli ebrei, comprarono terreni e territori anche dai proprietari arabi. Tutto questo però rientra nel fenomeno storico precedente 1967, cioè all'interno del che nessuno mette più in discussione, nel senso che tutti riconoscono, a parte forse Hamas e Hezbollah, ma tutti riconoscono il diritto dello Stato di Israele di esistere all'interno delle sue frontiere storiche del 67. Dopo la guerra del 67, la guerra dei sei giorni, Israele però occupò dei territori, sopra il Golan, soprattutto la West Bank, Gaza. Ecco, questi territori non sono stati, quando le colonie che sono nate negli anni successivi, non sono stati territori, terreni comprati ai palestinesi, ma sono stati terreni sottratti per atto militare o per atto giuridico, ma di parte solo israeliano, ai palestinesi, non sono mai stati comprati. Quindi va fatta una distinzione lungo la vecchia linea di demarcazione della frontiera del 1967. Cioè lo Stato di Israele, all'interno dello Stato di Israele nessuno mette in discussione il diritto degli israeliani di possedere quel territorio che oggi è lo Stato di Israele. A est invece della West Bank, cioè nella West Bank, a est della, appunto, delle vecchie frontiere del 67, no, quelli sono territori occupati militarmente in tutto e per tutto. Grazie mille Ugo Tramballi per questa precisazione, per aver soddisfatto la curiosità di un ascoltatore. Buona giornata, buon lavoro Ugo. Grazie anche a voi. Intanto c'è un'ultimissima dall'Ansa, perché avevamo sotto gli occhi la BBC, stava parlando David Cameron, che ha rilanciato l'allarme jihad e ha detto, era in conferenza stampa da Downing Street, sono 500 gli jihadisti britannici andati a combattere in Siria e in Iraq. In base alle informazioni a disposizione dell'intelligence di Londra, Cameron ha precisato che il governo ha già preso provvedimenti per evitare che questi estremisti tornino in patria e commettano atrocità, così come il suo staff aveva già rilanciato l'allerta che è massima in territorio britannico, la più alta forse da 3 anni a questa parte. E poi vi sono molti sms che sono molto gentili, sono di complimenti e di incoraggiamenti, ma i quali, forse l'avete notato, ma per politica mia i complimenti non li leggo mai. Ho sempre letto, cercato di leggere e rispondere semplicemente alle critiche che mi venivano mosse in questo mese di programmazioni. Per politica mia non leggo i complimenti, però saluto i tanti sms che mi sono arrivati, i tanti ascoltatori. E vorrei fare un'ultima notazione prima della chiusura, mancano 3-4 minuti, su questa missione Frontex. L'avete sentito, ne abbiamo dato notizia ieri, siamo riusciti a recuperare il portavoce di Frontex, perché anche su quello sono arrivati un po' di messaggi che dicevano, insomma, Frontex fondamentalmente è abbastanza vuota, non servirà a molto. Proverò a fare un paio di considerazioni. La prima è che è stato chiaro dalle parole di Isabella Cooper che Frontex non va a sostituire Mare Nostrum, va a posizionarsi in funzioni di controllo e monitoraggio, andrà presumibilmente molto vicine ai confini italiani, molto vicine alle acque italiane, quindi non si addentrerà nel Mediterraneo come faceva Mare Nostrum. La funzione di Frontex è controllo e monitoraggio, quindi non salvataggio. Quello che fanno loro, lo ha precisato la Cooper, è quello che hanno sempre fatto fino adesso. Io ho avuto modo di lavorare anche con delle pattuglie di Frontex in passato. Quando loro vedono dei migranti anche in pericolo, avvertono le autorità locali, che poi sono preposte all'intervento. Quindi il rischio che vedo io è di mettere in mare, di mettere in aria una macchina, una gigantesca macchina organizzativa che andrà semplicemente a osservare, e poi l'intervento in caso di pericolo dovrebbe comunque spettare alle navi italiane. Questo è il rischio che vedo io, con in più un altro minus, se vogliamo tenere l'etichetta di Frontex Plus, come in realtà poi non è e non sarà. Se il pattugliamento, il controllo e il monitoraggio viene effettuato vicino alle coste italiane, a questo punto probabilmente è un deterrente per quei trafficanti di uomini che in qualche modo coglievano l'opportunità di un pattugliamento più vicino alla Libia. Questa è una delle tesi che venivano proposte, sulle quali però io non sono d'accordissimo, non del tutto, diciamo. E quindi che cosa può succedere? Semplicemente che si aumentino i rischi di morte, perché comunque i migranti comunque cercheranno di partire. Sapete, io ho passato gli ultimi 2 anni e mezzo andando a caccia di trafficanti di uomini e ne ho trovati 12 più o meno facendo svariati viaggi. Una cosa che mi hanno detto non solo gli scafisti, quindi i pesci piccoli, ma i grossi trafficanti, mi hanno detto: voi della Fortezza Europa che chiudete le frontiere, che vi proteggete, che monitorate, che alzate muri, non avete capito nulla, perché noi facciamo i soldi proprio su questo vostro rafforzarvi, su questo vostro arroccarvi dentro ai confini. Noi chiudiamo una finestra, si aprirà una porta, noi chiudiamo la porta, si apre un'altra finestra, le rotte diventeranno più lunghe, diventeranno più costose, con più rischio di morte. Un trafficante in carcere un giorno mi ha detto: sapete perché non potete vincere? Primo, perché non li fermerete mai, e secondo, perché vi ricordo che Mosè è stato il primo scafista della storia. E adesso via, i saluti. E quindi mille ringraziamenti a Mire Locchetti, Nadia Zammitti, senza le quali questo programma non sarebbe potuto andare in onda per più di un mese. Robby Scaltriti, che ha dato musica e ritmo a tutti assieme a tutti gli altri in regia. Voi che siete stati all'ascolto e mi avete accompagnato nei luoghi che vi ho raccontato, io cosa faccio? Come al solito prendo lo zaino, spengo il microfono e vi saluto ricordandovi che nessun luogo è lontano.